Oggi i prezzi, ma questo non lo scopriamo quest'anno, purtroppo è una valutazione che ogni anno diventa sempre peggiore, ma purtroppo già in parte preventivata i costi di una stanza per studenti, ma in realtà anche per lavoratori, e quindi chi si trova a scegliere Bologna, vita si aggira intorno ad una media che, diciamo, i dati che ci arrivano dai report annuali di Immobiliare assestano intorno ai 630 euro al mese. Quindi una cifra che continua ad essere in costante aumento, nonostante da tempo la popolazione studentesca, i rappresentanti, noi come organizzazione studentesca e tante altre continuiamo a denunciare un caro affitto impellente che impatta sulla vita delle persone e che rende Bologna sempre una città meno accessibile e meno, come dire, rispondente al bisogno e al diritto che hanno le persone di poter scegliere dove studiare e dove lavorare. Il numero è sostanzialmente questo, con un trend di crescita evidentemente inarrestabile. Mentre voi chiedete più regolazioni sul mercato degli affitti, gran parte dei fondi del PNRR sono stati destinati a studentati privati piuttosto che studentati pubblici. E come mai succede questo? Succede perché sulla casa si continua a lucrare e non c'è una scelta politica di invece invertire la rotta su politiche abitative, non solo appunto, diciamo, per la componente fuori sede, quindi tra studenti e lavoratori, ma anche affrontando alla radice una crisi comunque abitativa che è più ampia in generale, che investe tutta la nostra città e tutto il paese, laddove di più, laddove di meno. Però, come dire, la scelta di mettere al centro politiche abitative accessibili e riconoscere la casa anche come un diritto che permette alle persone di svolgere la propria vita con dignità, questo manca all'interno del nostro paese. Noi da tempo chiediamo che venga fatta una regolamentazione, una legge anche nazionale, non solo appunto per affermare, come dire, uno stop rispetto all'edilizia privata che specula e cambia, modifica anche le nostre città sicuramente in negativo, ma appunto di riaffermare il fatto che l'edilizia deve essere pubblica, la casa deve essere un diritto, e quindi delle politiche abitative che escano dalla logica di mercato e che entrino invece in un ragionamento appunto di accessibilità totale. Perché secondo te lo strumento del canone concordato, che dovrebbe dare una mano quindi a calmierare i prezzi e rendere appunto accessibili gli appartamenti, non riesce a prendere piede a Bologna, o se c'è non fa bene il suo compito? Il problema è che bisogna immaginare una legge nazionale che possa, come dire, intervenire da una parte, appunto perché per me è strettamente legato la regolamentazione degli affitti brevi e quindi di queste piattaforme di Airbnb e simili, ma anche dall'altra parte riscoprire strumenti come il contratto a canone concordato, che in realtà, come dire, in altre città per esempio hanno un'esperienza decisamente più positiva rispetto alla nostra. Il tema è immaginare, come dicevo prima, una legge che in qualche maniera metta al centro la possibilità di immaginare forme di affitto su cui non lucrare, ma al contrario che mettono al centro le persone, quindi il diritto anche di poter scegliere la città in cui abitare.